Welcome to the Yene English course. English, no problem with Mr. Brown. Nel avete tuo curriculum sentito? Come metteresti? Inglese? L'inglese conoscenza? Lo sai che la mia è... No, tu buona. Ma figuriamoci. No, buona, ma lo sa... io metterei zero. No, no, quella proprio, la diciamo, mia. Del supermercato a New York, se dovessi sostenere un colloquio di lavoro in inglese non sarei in grado. Neanch'io. No, assolutamente. Vabbè. Lo dico, lo ammetto. Ma poi noi che... saremo qua in Italia, facciamo altro. Facciamo insomma. Altro. Nel frattempo facciamo... impariamo bene l'inglese. Sì. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Una delle regole imposte la scorsa stagione dal nostro tecnico prevedeva il divieto di mangiare patatine fritte. Non è qualcosa per cui avrei fatto la rivoluzione, ma ha innervosito tutti, tanto che quando Moyes ha lasciato il club, uno dei miei compagni ha detto: dobbiamo chiedere a Gigsy di farci mangiare le patatine. C'è qualcuno che vi ha proibito, come ha raccontato nella sua autobiografia il calciatore Rio Ferdinand, di mangiare le patatine fritte, o ha cercato di farlo? E voi come avete reagito? Ci avete provato? Vi siete innervositi? Avete fatto orecchie da mercante? E com'è andata? Sarà capitato anche a voi di avere... Può capitare che ci venga caldamente suggerito di modificare la nostra dieta riducendo alcuni alimenti come le patatine fritte, i grassi saturi in generale, a favore di altri, frutta, verdure, cereali integrali, pesce azzurro, per fare un esempio. Il nostro medico curante può invitarci a rivedere un po' il nostro stile alimentare per tante ragioni: un giro vita un po' abbondante, la pressione un po' altina, i valori di colesterolo e trigliceridi fuori norma. A proposito, voi mi sapete dire quali sono i valori del vostro colesterolo? Parlo al plurale perché ormai sappiamo bene anche noi che c'è un numero per colesterolo totale, uno per quello buono e uno per quello cattivo, che tra l'altro sembra essere diventato ancora più cattiva, ma ne parleremo nel corso della trasmissione. E i trigliceridi a quanto vanno? Di questi grassi parleremo oggi con il nostro esperto, il professor Claudio Borghi, direttore dell'unità operativa di medicina interna al Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna. Questi sono grassi, è vero, ma non bisogna, come si dice, fare di ogni erba un fascio. Chiamateci allora, il nostro numero verde è già a vostra disposizione, 800 24 00 24, e scopriremo insieme perché è importante controllare colesterolo e trigliceridi, perché è importante mantenerli nei valori ottimali, e soprattutto se i vostri valori sono un po' fuori norma, il nostro esperto ci darà consigli per farli ritornare ai valori ottimali. Nella seconda parte della trasmissione, invece, per la pagina dei denari, andremo a parlare di un altro argomento che, Nicoletta, è un po' con il colesterolo. Sì, è vero. Interessa, purtroppo c'è da aggiungere, tanti italiani, e oltre al cuore crea anche molte difficoltà per i denari. Parliamo del divorzio, anche se non parliamo di quei divorzi molto onerosi come quello dell'ex premier Berlusconi e di Veronica Lario, che tra l'altro è tornata a far parlare di sé in questi giorni. Assolutamente sì, in quel caso è stata ottenuta la riduzione di un terzo dell'assegno dovuto all'ex moglie, non più 108 milioni in 3 anni, ma solo 72. Briciolini, ecco, 2 milioni al mese anziché i 3 assegnati dal tribunale. Però, Deborah, divorziano, come dicevi tu, anche le persone che hanno un conto in banca normale. Esatto, e quella che è una scelta di per sé già difficile viene ulteriormente appesantita dalla lentezza della procedura necessaria ad ottenerlo, il divorzio, e dai costi. Però, come avrete sentito e letto dai giornali in questi giorni, c'è qualche novità in arrivo. Il decreto legge sulla semplificazione della giustizia civile, pubblicato proprio venerdì sulla Gazzetta Ufficiale, è già per alcune parti operativo, introduce quello che qualcuno ha definito, in maniera impropria forse, il divorzio fai da te. In poche parole, non sarà più necessario in certi casi presentarsi davanti ad un giudice. Noi dedicheremo a questi cambiamenti la seconda parte della nostra puntata, per cui iniziate a prenotarvi anche su questo tema all'800 24 00 24. Raccontateci se ci state pensando, se è un percorso che avete già affrontato o volete condividere con noi le difficoltà o fare delle domande al nostro esperto, insomma, per voi o per qualcuno che vi è vicino. Vi aspettiamo. colesterolo è una parte cattiva del grasso, diciamo. Per quanto riguarda il colesterolo indica una presenza, diciamo, un tipo di grassi che ha un'incidenza fondamentale per lo stato di salute di una persona. Il colesterolo penso che sia il grasso, la quantità di grasso che si trova nel sangue. Una sostanza che si trova nel sangue che più o meno ostacola o favorisce il passaggio del sangue, lo rende più o meno fluido, no? Allora, il colesterolo è quella cosa che quando vado a fare gli esami del sangue ce l'ho sempre alto e non capisco mai dove sbaglio. Il colesterolo, il colesterolo, lotto con l'HDL, sarà dura anche per lui. Deborah si sta ammazzando di risate, intanto chissà se ride anche il professor Borghi che è in linea con noi. Buongiorno, ti piacerà professore? La canzone che moltissimo, abbiamo scelto. Buongiorno a tutti, rido moltissimo perché io che ho la presunzione di essere un cultore di musica di ogni genere, mai e poi mai avrei immaginato che esistesse un motivetto inneggiante al colesterolo, è stata una gradevole novità. Ne abbiamo per tutti i temi, professor Borghi, veramente incredibile. Veramente, sì. Non avrei mai immaginato una cosa del genere. Come dire che c'è sempre da imparare a frequentare Cuore Denari, professore. Ma io ne sono sicuro, ne sono convinto, quando posso lo ascolto d'accordo, regolarmente ottimo. E quando non lo ascolto no, è perché non mi è permesso. Va bene, allora già, vero? Il professor Borghi già ci piace. Deve mettere adesso la canzoncina nella sala d'aspetto del suo studio. Allora, sì, magari si canta, lo rende meno odioso, perché a volte basta nominarlo per attivare timori, sensi di colpa e naturalmente conseguenti buoni propositi. Ma è davvero quel mostro che ci raccontano? Professore, la nostra Vox Populi ha raccolto quello che si dice, si pensa di questo grasso, il suo vissuto, potremmo dire. Alcuni hanno risposto un grasso nel sangue, alcuni precisano che deriva da una cattiva alimentazione, un eccesso di grassi. Vogliamo fare un po' di ordine e soprattutto, professore, vogliamo rivalutarlo un po', perché che se ne dica di lui, non è così brutto come ce lo dipingono. No, non è brutto come ce lo dipingono, soprattutto tenendo conto che è assolutamente indispensabile per la nostra vita, cioè non è qualche cosa in eccesso che ci può fare soltanto del male del quale ci dobbiamo liberare, dobbiamo tenerlo sotto controllo, come se dovessimo tenere al guinzaglio un animale che sia eccessivamente un cagnino, che sia eccessivamente esuberante. Il colesterolo è parte fondante della costituzione delle nostre membrane, di alcuni dei nostri ormoni, di alcune vitamine, in particolare della vitamina D, e senza colesterolo ovviamente noi non potremmo svolgere una vita normale, quindi certamente non deve essere demonizzato. È altrettanto vero che quando si accumula in maniera eccessiva tende a depositarsi nei posti sbagliati, quindi ciò che dobbiamo fare è fondamentalmente tenerlo a freno, ma non impedire che svolga la sua funzione fisiologica, e da questo punto di vista naturalmente non deve essere demonizzato. Allora, abbiamo detto che il colesterolo si fa in tre, è un modo di dire, abbiamo anticipato, ci sono tre numeri, c'è quello totale, c'è l'LDL, il cosiddetto colesterolo cattivo, e l'HDL, il colesterolo buono. Tre numeri, professor Borghi, che vanno considerati. Ci raccontano anche questi numeri se il colesterolo, i livelli del nostro colesterolo rappresentano un rischio per la nostra salute, per la salute del nostro cuore in modo particolare. Certamente. I livelli di colesterolo sono qualcosa che noi dovremmo conoscere ed interpretare proprio perché annessi a questi livelli di colesterolo ci possono essere diversi livelli di rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. È chiaro che, come spesso avviene in medicina, il valore assoluto che noi prendiamo in considerazione non può essere considerato in maniera completamente svincolata dal contesto in cui si inserisce, per cui certamente il valore di colesterolo ha un suo significato, ma deve essere rapportato alla possibilità o meno che il substrato su cui agisce, quindi l'organismo, ne possa subire un danno. Certamente quello che lei dice è giusto, parlare in senso generico di colesterolo è profondamente sbagliato, perché sotto la definizione di colesterolo o di ipercolesterolemia si collocano diversi valori all'interno dei quali tradizionalmente noi identifichiamo un cosiddetto colesterolo buono, che è il colesterolo HDL, quello per intenderci che tende a trasportare il colesterolo via dalla parete delle nostre arterie. È uno spazzino, insomma. Esattamente. Il colesterolo cosiddetto cattivo, che è il colesterolo LDL, quello che tende a fare esattamente il compito opposto, quindi depositarsi nella parete delle arterie. Quello che noi dobbiamo cercare di fare è di tenere il più basso possibile entro i limiti di normalità il colesterolo cosiddetto cattivo e al di sopra dei limiti di normalità il cosiddetto colesterolo buono. Una volta, fino a qualche anno fa, si valutava moltissimo il rapporto tra i due, oggi è rimasto una cosa di un certo interesse, senza però che ricopra quel significato prognostico così rilevante che aveva nel passato. passato ci si è resi conto che vale la pena probabilmente di considerarli in maniera separata, secondo una linea di priorità. Prima farci carico di ridurre il colesterolo cattivo ed eventualmente aumentare il nostro livello di protezione facendosi carico dell'incremento del colesterolo buono. Quindi invece che considerare questi due elementi in parallelo o come l'uno in grado di modificare l'effetto dell'altro, è più logico considerarli in una sequenza virtuosa che veda prima il controllo del colesterolo cattivo ed eventualmente il beneficio aggiuntivo del miglioramento del colesterolo buono. Se l'avete controllato di recente, andate a prendere i vostri esami 800 24 00 24. Se e sono in tante le persone che non l'hanno mai controllato, professor Borghi me lo conferma, i dati dicono 20 persone su 100 non sono assolutamente interessati a lui, io direi di prestare orecchio, perché cerchiamo di capire perché, se questo colesterolo ci aiuta a stare bene, è essenziale per la nostra vita, perché come dice il professor Borghi dobbiamo imparare a tenerlo un po' al guinzaglio. Andiamo a sentire i nostri ascoltatori. Esattamente, ci sono virtuosi. Ci sono Maurizio della provincia di Catania, vedremo adesso se dalle analisi sono virtuosi. Maurizio della provincia di Catania, che naturalmente siccome è un cavaliere lascerà il posto per intervenire per prima Marisa da Brescia, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno a voi. Buongiorno a tutti. Benvenuta, grazie, ci dica. Grazie per la risposta. Ho sentito parte del discorso del professore, volevo solo confrontarmi su una cosa, sono sempre stata virtuosa e il mio colesterolo è stato sempre al di sotto dei 200 fino al momento tragico della menopausa. E a distanza di 6 mesi dal primo al secondo controllo, da 180-190 che avevo, è schizzato a 3,43. Volevo solo capire se posso ancora fare qualcosa, avere speranze di ridurlo. E l'altra cosa che mi interessava, non sto ancora assumendo statine, anche se il mio medico mi sta già informando di questa cosa, ma sto assumendo dei semplici integratori, e secondo il mio medico questi integratori abbassano sì il colesterolo, infatti pian piano l'ho ridotto, però non ripuliscono le arterie, per cui ecco, volevo capire. Una doppia domanda per il professor Borghi. Allora, menopausa, un momento cruciale. Il colesterolo si è impennato, è colpa della menopausa, professor? Sì, beh, è colpa del fatto che viene meno un meccanismo di protezione ormonale. La menopausa di per sé è sostanzialmente questo, ossia la perdita di un certo grado di protezione, e questi ormoni circolanti, la cui influenza diventa molto molto modesta, hanno dal punto di vista, quello che noi diciamo biochimico, la capacità di influenzare favorevolmente il profilo lipidico, tenendo il colesterolo totale, il colesterolo LDL, quindi quello cattivo, un po' più basso e il colesterolo HDL un po' più alto. Nel momento in cui scompaiono dalla circolazione o diciamo più propriamente smettono di svolgere la loro funzione, è chiaro che le caratteristiche biochimiche diventano per le donne esattamente identiche a quelle degli uomini, che hanno in generale un aumento della colesterolemia che compare più precocemente proprio perché mancano di questo meccanismo di protezione. Quindi nulla di strano e nulla di particolare se la nostra ascoltatrice ha visto un aumento del suo colesterolo dopo la menopausa. Cosa fare? Sicuramente una cosa che devo precisare è che la nostra ascoltatrice ha un medico eccellente che le ha dato dei consigli che corrispondono esattamente alla realtà, quindi qualcuno del quale si potrà fidare in futuro. Quei livelli di colesterolo dovrebbero essere trattati farmacologicamente. La scelta però del trattamento farmacologico o meno, quindi delle statine o di alternative alle statine, è legata a quello che noi chiamiamo profilo di rischio globale, quindi non semplicemente un riflesso diretto tra elevati livelli di colesterolo e impiego di una statina, ma una valutazione del profilo di rischio cardiovascolare globale della nostra ascoltatrice, che può essere derivato molto semplicemente da una serie di parametri, e se emerge che quel profilo di rischio cardiovascolare è oltre un certo livello, a quel punto naturalmente il trattamento con statine si impone. Problema integratori è un problema molto complesso. Fondamentalmente preferisco parlare di sostanze nutraceutiche o diciamo qualche cosa che sia in grado di influire sul metabolismo del colesterolo, perché spesso dietro la definizione di integratori ci stanno componenti che non hanno alcuna capacità di agire in maniera attiva. Però nell'ambito del controllo del colesterolo esistono sostanze di derivazione naturale che sono preparate con formulazioni che possono essere prese sistematicamente, che hanno la capacità di ridurre il colesterolo. Ma ancora una volta, quello che dice il medico curante della nostra ascoltatrice è vero, valgono per le ipercolesterolemie di grado lieve, non valgono nel caso in cui si debba ridurre in maniera significativa valori di colesterolo elevati. E noi tra l'altro invitiamo la nostra ascoltatrice a seguirci, perché Deborah ci raggiungerà la professoressa Creglia, con cui approfondiremo proprio tutto questo grande capitolo dei nutraceutici, e quindi parleremo di polifenoli, fosfolipidi, e di tutte queste che possiamo dire le armi non chimiche per sconfiggere un po' il colesterolo. Prima di andare a Maurizio dalla provincia di Catania, vogliamo parlare anche dei trigliceridi? Abbiamo parlato bene del colesterolo. I trigliceridi, se vogliamo, sono un po' cugini del colesterolo, perché appartengono alla grande famiglia dei grassi presenti nel nostro organismo, ma come capita in tutte le famiglie ci sono differenze tra i vari componenti. I trigliceridi in che cosa si differenziano dal colesterolo e che cosa hanno un ruolo come il colesterolo, che è utile al nostro organismo, o sono comunque sempre da tenere sotto controllo e non possono che nuocerci? Beh, certamente si differenziano rispetto al colesterolo per la loro struttura, anche se in qualche modo entrano in una sorta di processo metabolico lineare, che è quello che caratterizza la produzione delle cosiddette lipoproteine, che sono quelle che trasportano i grassi nel sangue e che permettono ai grassi stessi di raggiungere il loro bersaglio. Bersaglio che, come abbiamo precisato all'inizio, esiste, ed esiste in senso funzionale, cioè perché questi grassi nel sangue servono a qualche cosa, non fanno soltanto del male. E naturalmente questa efficacia vale anche per i trigliceridi, che rappresentano dal punto di vista del meccanismo di funzionamento cellulare una sorta di energia più rapidamente disponibile rispetto a quello che riguarda il colesterolo. Il colesterolo deve essere smantellato per poter essere trasformato in energia utilizzabile da un meccanismo più complesso. I trigliceridi sono invece più rapidamente utilizzabili, quindi certamente cugini del colesterolo, altrettanto sicuramente hanno una loro funzione fondamentale, che è quella di permettere alle nostre cellule fondamentalmente di nutrirsi e di mantenere la loro funzione. Anche in questo caso però esiste un problema di eccesso. Quando i livelli di trigliceridi risultano eccessivamente elevati a livello del sangue, quindi in circolazione, anche in questo caso il paradigma diventa molto simile a quello del colesterolo, nel senso che possono depositarsi a livello della parete arteriosa e contribuire a innescare quel meccanismo che conduce poi allo sviluppo della malattia aterosclerotica e successivamente allo sviluppo delle complicanze cardiovascolari. Quindi anche in questo caso il paradigma è sostanzialmente lo stesso: una sostanza utile che, quando eccede nella quantità in cui circola, può creare problemi e quindi come tale deve essere tenuta sotto controllo. Dobbiamo fargli abbassare un pochino a Maurizio dalla provincia di Catania, se non ho capito male. Maurizio. Sì, buongiorno. Benvenuto. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, niente, la mia domanda è: avendo i trigliceridi da 710 e il colesterolo LDL 163, diciamo qualche rimedio, qualche consiglio per farli scendere velocemente, dato che anche velocemente detto, Maurizio vuole anche rapidamente, professor Borghi. 710. Sì, io 710 è certamente un valore al quale bisogna porre rimedio, perché può creare una serie di problemi non soltanto dal punto di vista vascolare, ma anche dal punto di vista, ad esempio, della funzione del pancreas. Ci sono alcuni elementi per cui, quando i trigliceridi si accumulano in eccesso anche in altri organi, possono produrre qualche problema. Quindi il nostro ascoltatore è giustificato nella sua richiesta di farli scendere rapidamente. In questo caso due cose io farei: una dieta che sia particolarmente povera di carboidrati, perché la maggior parte dei trigliceridi derivano prevalentemente dai carboidrati, una minima introduzione di alcol, perché l'alcol, anche sotto forma di vino, anche di eccellente qualità, ovviamente viene trasformato in trigliceridi, e naturalmente una riduzione dell'introduzione di zucchero sotto le forme più varie. In questo caso però un risultato solo dietetico non credo che possa soddisfare il nostro ascoltatore, ed esistono terapie di tipo farmacologico. In particolare oggi c'è una grande rivalutazione della terapia con i farmaci fibrati, i quali sarebbero in grado di inibire specificamente quel meccanismo biochimico che entra in maniera primaria nella produzione dei trigliceridi. Un'altra possibilità invece di derivazione strettamente naturale, ma che in questo caso dovrà essere integrativa e non la terapia di base, perché i livelli sono troppo alti, è l'uso di dosi rilevanti di acidi grassi omega 3, dei quali credo parlerà poi la professoressa Creglia nella seconda parte della trasmissione. Ma oggi al nostro ascoltatore io suggerirei l'impiego di una assunzione assunzione di fibrati che sono in grado di ridurre i trigliceridi in maniera rapida associate a una dieta come quella che ci siamo detti. E comunque, professor Borghi, mi è sembrato di capire che i trigliceridi rispetto al colesterolo sono più sensibili alla dieta. Se ci mettiamo, ci danno più soddisfazioni. Insomma, facciamo delle limitazioni e delle riduzioni, i trigliceridi si abbassano. Sul colesterolo conta anche la genetica, per cui la troviamo un pochino più dura. Noi abbiamo i mercati. Esatto, però a proposito di genetica, c'è ho notato tra i messaggi che ti sono piaciuti. Mi sono piaciuti, anche se mi spiace soprattutto per persone molto giovani che abbiano già questo problema. Caterina, per esempio, 22 anni, una sportiva, alimentazione buona, valori molto alti, e chiede che cosa deve fare naturalmente per ridurli. Un'altra persona ancora, un altro ascoltatore, chiede se c'è familiarità, perché suo figlio di 10 anni ha un colesterolo totale 210, per cui direi che dobbiamo un po' spostarci. Certo, e noi dopo i mercati affronteremo naturalmente questo aspetto insieme al professor Borghi, quindi restate con noi, continuate a chiamarci, i nostri centralini sono presi d'assalto tra divorzio e colesterolo. Oggi vogliamo proprio allontanare le cose che non ci fanno bene. 800 20 400 24, speriamo che i mercati invece ci diano buone notizie. Stanno andando bene oggi. Vedi? Sì. Cuore e denari. Sì, una marcia nuziale un po' sgangherata, come qualche volta possono essere anche dei matrimoni che alla fine finiscono, e in matrimonio l'armonia può anche capitare che non duri per sempre. Allora, proprio per questo, nella seconda parte del nostro programma oggi parliamo di quei matrimoni che finiscono con un divorzio, una scelta difficile da tanti punti di vista, a cominciare da quelli umani e affettivi, non è necessario elencarli, ma naturalmente è anche difficile tutto questo per gli aspetti economici e burocratici. Da qualche giorno potrebbe essere un po' più semplice, perché basterà presentarsi davanti ad un avvocato ed ottenere il divorzio. Veloce, lampo, come possiamo definirlo? Lo capiremo tra poco con l'avvocato Carmelo Padarino. Capiremo cosa cambia e da quando cambia tutto questo. Cominciate a prenotarvi all'800 24 00 24. Prego, si accomodi. Tamburini, molto lieto. Prego, le sue analisi per favore. Grazie, molto gentile. Bellissime, stupende. Azotemia magnifica, glicemia eccezionale, colesterolo delicatissimo, trigliceridi fantastici, urine meravigliose, complimenti. Grazie. Prego. Professor Borghi, questa la conosceva invece, eh? 7 kg in 7 giorni, una scena, Carlo Verdone e Tiziana Pini. Allora, regaliamo un libro anche al professor Borghi. Però io ne regalo uno di denari, uno solo, obbligazioni statali, governative. È contento? Assolutamente, assolutamente. Credo di essermelo meritato, lo leggerò in maniera avida. Poi Deborah la invita, e invece che parlare del colesterolo, cuori, ipertensione, parleremo del... ma guarda che le obbligazioni, un po' di ipertensione, quando lo spread era alle stelle... ce l'ha fatta venire, eh? Assolutamente sì. Allora, non c'è dubbio. Professore, torniamo ai nostri grassi per tenerli sotto controllo. Riprendiamo il nostro tema: colesterolo e trigliceridi. Insomma, cerchiamo di farceli amici. 800 24 00 24. Come lei ha spiegato, non è solo colpa della dieta ad alzare il nostro colesterolo, potrebbe esserci lo zampino della genetica. Possiamo così dare una risposta o una spiegazione agli sms che sono arrivati di ascoltatori molto giovani, addirittura un bambino di 10 anni con il colesterolo già elevato? Certo, credo che questo sia forse il problema più importante, diciamo l'acquisizione più rilevante degli ultimi 20 anni, da quando la genetica ha incominciato ad imperversare, è esattamente questo, il fatto di essersi resi conto che soprattutto l'ipercolesterolemia, ma non soltanto quella, è sotto uno stretto controllo genetico, e la maggior parte del colesterolo che circola nel nostro sangue viene prodotto geneticamente dal fegato, quindi è in parte svincolato dalla dieta. Questo naturalmente non vuol dire che noi dobbiamo dimenticarci della dieta, possiamo ingerire colesterolo e grassi esprimarsi in maniera completamente libera, ma vuol dire che ci sono alcuni soggetti predisposti, e questi nostri ascoltatori certamente hanno raccontato la loro esperienza, nei quali i livelli di colesterolo aumentano perché ne hanno una produzione eccessiva, e naturalmente, pur vivendo una vita virtuosa, non troveranno mai valori di colesterolo che siano perfettamente normali. Questo è un aspetto molto importante da non dimenticare mai. Professore, parlavamo fuori onda con Deborah e dicevamo, sì, insomma, è un fattore di rischio che un po' come la pressione alta non dà segni di sé. No, nella maniera più assoluta, fondamentalmente perché il momento in cui dà segni di sé è perché si sta sviluppando qualche complicanza, quindi vuol dire che è purtroppo già avanzato nella storia naturale, anzi forse... Se dobbiamo fare una sorta di classifica della possibilità di avere sintomi specifici, il colesterolo è ancora più subdolo dell'ipertensione, perché l'ipertensione qualche sintomo in alcuni pazienti tende a darlo, anche se spesso sono sintomi interpretati a posteriori, però comunque hanno una loro logica. Il colesterolo assolutamente no, perché non producendo nulla di immediato può dare sintomi soltanto quando compaiono le complicanze, quindi a maggior ragione vale per il colesterolo quello che noi diciamo di solito per tutti i fattori di rischio, che il punto centrale per una diagnosi precoce è misurarselo, non immaginare che succeda qualche cosa che ci metta in allarme. Certo. Professore, un colesterolo elevato può essere quindi colpa anche un po' della genetica, in parte della dieta, ma potrebbe anche essere il segnale di una tiroide che va un po' per conto suo? Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Questo soprattutto nelle donne. Sì, perché la tiroide ci ama. Sì, se la prende sempre con noi. Vabbè. Sono molto, molto più comuni nelle donne che negli uomini, tant'è vero che quando si manifestano in un uomo è necessario cercare che cosa sta alle spalle, perché sì, l'interpretazione più immediata in generale non appartiene al sesso maschile. Una delle caratteristiche del malfunzionamento della tiroide è un aumento dei livelli di colesterolo, e più precisamente la riduzione dell'efficacia della tiroide, quindi l'ipotiroidismo, che oggi è così diffuso, è una di quelle condizioni che sono in grado di aumentare i livelli di colesterolo. Quindi naturalmente nella logica, nello screening diagnostico che noi facciamo per interpretare alterazioni dei problemi lipidici e in particolare di colesterolo, va valutato anche la funzione tiroidea. Non si deve né immediatamente considerare soltanto la genetica, né considerare solo gli aspetti dietetici che sono importanti, ma anche la possibilità che alcune forme secondarie molto comuni come l'ipotiroidismo possano essere in causa. Il tutto permette di fare uno screening estremamente rapido ed economico. E invece come interpretare un'impennata dei valori dei trigliceridi? C'è una causa anche in questo che potrebbe essere non necessariamente legata a qualcosa di vicino ai trigliceridi? La prima causa per l'interpretazione di un'impennata dei livelli di trigliceridi è che lei abbia buoni amici che li invitano a cena ogni sera in un buon ristorante. Sì. Questo è certamente la causa principale dell'impennata dei trigliceridi. Ma c'è un aspetto importante, a mio parere, che in parte abbiamo accennato in precedenza, ossia il fatto che l'aumento dei trigliceridi possa essere un meccanismo secondario ad altre condizioni. E tra queste, quella certamente di interesse più generale anche per i nostri ascoltatori, è il diabete. Ci sono alcune situazioni in cui le fasi iniziali di una malattia diabetica non si manifestano con un aumento della glicemia, che è quello tipico dei pazienti diabetici, ma con un aumento spropositato dei trigliceridi, perché per mantenere livelli glicemici ancora normali c'è una sorta di meccanismo alternativo di tipo biochimico che fa spostare la sintesi degli zuccheri, o trasforma gli zuccheri in trigliceridi. Quindi trovare livelli elevati di trigliceridi potrebbe suonare un po' un campanellino. Richiede una diagnostica indirizzata alla ricerca del diabete, soprattutto se si ha familiarità per la malattia diabetica. L'abbiamo anticipato e ci ha raggiunto la nostra prossima ospite. La professoressa Silvana Crelia, docente di biochimica della nutrizione, Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell'Università di Bologna. Un bel dipartimento, vero? Assolutamente, dei signori professionisti, complimenti. Professoressa, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori e un caro saluto all'amico e collega Claudio Borghi. Ciao, ciao. Beh, a quale denari ci si incontra? Caramba, che sorpresa. Facciamo professoressa Creglia, non abbiamo tanti minuti, scavagliamo magari di un paio di minuti anche dopo le informazioni sul traffico. Abbiamo capito che quando il problema si fa serio bisogna ricorrere ai farmaci, ma c'è una zona grigia in cui la dieta e anche il ricorso al mondo vegetale possono aiutarci. Parliamo di alcune sostanze: fitosteroli, polifenoli, omega 3, tutti li abbiamo sentiti nominare. Dopo le informazioni sul traffico, insieme a lei, professoressa Creglia, consigli per chi è all'ascolto, soprattutto per chi ha dei valori solamente un pochino fuori norma, per utilizzare al meglio queste sostanze. A tra poco. Tutti attenti al traffico. Cuore e denari. E siamo tornati insieme, mi raccomando, prestate massima attenzione. In linea con noi la professoressa Silvana Creglia, con cui cercheremo di capire che cosa sono esattamente tutte queste sostanze che arrivano dal mondo vegetale. Si sente parlare di nutraceutici, possono esserci utili, quale e dove si trovano. Professoressa, partiamo dai fitosteroli, che è un po' la versione vegetale del colesterolo, possiamo definirli così? Indubbiamente, sono molecole simili al colesterolo, si trovano nelle piante, i più comuni hanno dei nomi quali beta-sitosterolo, stigmasterolo. Dove li troviamo? Li troviamo negli oli vegetali, quali gli oli di mais, l'olio di girasole, di soia, nei semi, quali le noci, i semi di sesamo, gli anacardi, le mandorle, le arachidi, ma anche nel mais e nel grano, ne contengono anche la frutta e la verdura fresche. Però teniamo presente che il nostro introito quotidiano con la dieta di questi fitosteroli raramente supera i 200-400 mg, che è una quantità molto inferiore a quella che è la dose efficacia per modulare gli eccessi di colesterolo nel sangue. Infatti il meccanismo di queste sostanze è la loro capacità di ridurre l'assorbimento a livello intestinale. Per ottenere questo effetto però dobbiamo consumarne da 1,5 a 3 grammi di steroli al giorno, cosa che è possibile per esempio utilizzando alimenti funzionali o funzionalizzati come i famosi yogurt arricchiti di colesterolo. C'è una giornata ideale, il momento della giornata in cui è meglio assumere questi prodotti, e sono adatti a tutti, a chi in particolare? Di solito in concomitanza con uno dei pasti principali, perché il meccanismo è una competizione con l'assorbimento del colesterolo. È chiaro che se lo assumiamo in concomitanza con i pasti concorriamo maggiormente ad evitare di assorbire la quota di colesterolo alimentare che noi abbiamo introdotto con la dieta. E sono indicati soprattutto a persone che hanno alterazione dei livelli colesterolemici, anzi addirittura vengono sconsigliati a quelli che hanno il colesterolo nella norma. Per quale ragione? Perché questi prodotti funzionalizzati riducono sì l'assimilazione del colesterolo, ma diminuiscono anche l'assimilazione di alcune vitamine, fra cui la provitamina A, cioè il beta carotene, e la vitamina E. Quindi sono suggeriti a individui che hanno livelli di colesterolemia o borderline o elevata, eventualmente anche in associazione con la terapia farmacologica. Professoressa, io mi ricordo che in una precedente intervista lei aveva rivisitato un vecchio proverbio: una mele e tre noci al giorno tolgono il medico di torno. Certo, perché le noci? Non perché ce ne voglia il professor Borghi. Non tutti sanno che le noci sono una fonte di omega 3, quindi non solo il famoso pesce azzurro che tutti conosciamo sì, è fonte di omega 3, ma anche la cosiddetta frutta secca, non a caso chiamata gergalmente frutta oleosa. Perché oleosa? Perché contiene dei grassi, certo. Questi grassi sono grassi buoni, fra cui gli omega 3, e sono anche una grande fonte di vitamina E, quindi di vitamine antiossidanti. Per cui una mela ricchissima di polifenoli, fra cui la quercetina, che sono tutti elementi che concorrono in sinergia ad abbassare tanto i livelli della colesterolemia quanto i livelli di trigliceridi, possono essere consigliati nell'ambito di un regime nutrizionale corretto. Professoressa Creglia, vorrei poi ritornarci, ma io voglio che lei ci racconti rapidamente che cos'ha di interessante l'ibisco che voi state studiando con il suo gruppo di ricerca. I fiori di ibisco vengono utilizzati per la preparazione di tè, infusi e tisane, ed è noto da tempo l'ibisco per le sue proprietà ipotensive, ma più recentemente si è visto che il fiore di ibisco ha anche la capacità di modulare i livelli di trigliceridi e di colesterolo e di diminuire pertanto l'indice aterogenico e il rischio aterogenico dell'individuo. Agiscono quindi un fiore antigrasso? Un fiore antigrasso, e basta una tazza di tè di disco al giorno. Esiste anche un trial clinico effettuato un paio d'anni fa in cui si dimostra che l'assunzione di una tazza di infuso o di tè di disco, preso per esempio la sera prima di dormire, riesce a diminuire di una quota che va dal 10 al 15% i livelli di trigliceridi e colesterolo. Straordinario. Allora, salutiamo i nostri amici bolognesi. Che grazie alla professoressa Crelli e al professor Borghi, grazie per essere state con noi. Buona giornata ad entrambi. Grazie, finite a voi, buona giornata. Quanti anacardi posso mangiare, professoressa Crelli? 4-5, non di più, perché bisogna tener conto purtroppo dell'impatto calorico, ma sono più che sufficienti. Infatti il proverbio dice una mela e tre noci. Aggiungiamo 5 anacardi se vogliamo giusto strafare. Grazie, buona giornata. Mi chiedevo, ma noi chissà perché viviamo? Ma tu mai ci hai pensato qual è lo scopo vero della nostra vita? Qual è? È amare. E amare, noi viviamo per amare. Se non si amerebbe noi. Amasse, se non si amasse. Sì, noi appassi come tanti fiori in autunno appassiti. Noi appassiressimo, Fefe. E non è proprio destinato ad un lieto fine il matrimonio di Fefe e Rosalia, te lo ricordi? Certo, film? Divorzio all'italiana. Pellicole cinematografiche a parte, lo sappiamo, il divorzio all'italiana, quello previsto dal nostro ordinamento, non è proprio noto per essere una procedura snella, più lento e complesso da ottenere rispetto a molti altri paesi europei. Però, Nicoletta, c'è qualche cambiamento in arrivo e sappiamo che, ahi noi, visto che noi in realtà siamo appassionati un po' di più a storia a lieto fine, sono tanti gli italiani ad essere interessati appunto a queste novità. Secondo gli ultimi dati Istat sono tanti gli amori che finiscono, anche per, però c'è stata una piccola frenata. Nel 2012 le separazioni sono state più di 88.000 e i divorzi più di 51.000, numeri alti, certo, anche se entrambi i dati sono in calo rispetto all'anno precedente. Insomma, la durata media di un matrimonio sembra essere di 16 anni. I matrimoni più recenti durano un po' di meno. Sempre secondo i dati, confrontando i matrimoni celebrati nell'85 con quelli del 2005, le unioni interrotte dopo 7 anni, che è la crisi del settimo anno da una separazione, sono addirittura raddoppiate, passando dal 4,5% al 9,3%. Tanti numeri, noi ne diamo un altro, il nostro, l'800240024, per condividere con noi la vostra storia, perché sappiamo che dietro a questi numeri ci sono tante storie. Se c'è anche la vostra o quella di qualcuno che vi è vicino, chiamateci oggi, perché cercheremo di darvi una mano, se non altro per le questioni pratiche, burocratiche, oltre che economiche. Non possiamo fare finta che non ricoprano un ruolo molto rilevante in questi casi. Allora, per chi di voi è appassionato di giustizia civile, saprà che nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge sulla semplificazione della giustizia civile. Do anche i riferimenti, il numero 132 di quest'anno. Un provvedimento di vastissima portata che, tra le altre cose, contiene norme sui procedimenti di separazione e divorzio che qualcuno ha definito davvero epocali. La novità riguarda in particolare la procedura civile, nel senso che questi procedimenti, che da sempre sono rimessi alle autorità giudiziarie, vengono adesso anche attribuiti, in caso di accordo, alla competenza degli avvocati e degli ufficiali di Stato civile. Cosa cambia nella pratica? Ne parleremo per tutta la seconda parte del programma, però facciamo in tempo a salutarlo con l'avvocato Carmelo Badalino, avvocato del Foro di Catania, che salutiamo. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Buongiorno. Allora, adesso abbiamo la chiusura fra un minuto, avvocato, però intanto un piccolo commento sulla portata di queste novità per voi avvocati: più grane, più impegno, più opportunità. Ma guardi, l'impegno è lo stesso, è anche l'opportunità. Si riducono i tempi per chi può già ottenere il divorzio per poterlo ottenere proprio concretamente, ma devo dire, anche a costo di far calare l'audience purtroppo, non sono cambiati i tempi necessari per ottenere dalla separazione il divorzio, quindi 3 anni restano. Allora bisognerà capire per quale motivo viene tanto diffusa questa notizia e, come dire, un po' viene sbandierata come una novità epocale, perché si trasforma in divorzio veloce, no, con la nuova pratica. Quindi lo capiremo tra poco. 800240024, prenotate i vostri interventi, ci risentiamo tra qualche minuto. Cuore e denari. Io credo che tu mi debba delle scuse, Barbara. Se hai qualcosa da dirmi, io sono qua. Io voglio il divorzio. No, ma che divorzio? Ma cosa dici? Neanche per sogno. Non sai quanto ci ho riflettuto. Io proprio non voglio più essere sposata con te. Ma perché mai vuoi divorziare? Insomma, ti ho fatto qualcosa? O non ti ho fatto qualcosa? Non riesco a specificare i motivi, Oliver. Beh, provaci! Non ci voglio provare! Insomma, io in caso dovrei chiedere il divorzio. Voglio dire, quello portato all'ospedale in preda a una grave... indigestione. Sì. Sei una grande esperta nell'arte di farmi passare da cretino. La terribile guerra dei Roses, che sicuramente ci rappresenta molto bene uno di quei divorzi, come dire, allucinanti, no, Nicoletta? Mamma mia. Allora, oggi stiamo parlando del nuovo, tra virgolette, divorzio breve, entrato in vigore con il decreto legge 132 sulla semplificazione della giustizia civile, che introduce delle novità importanti per evitare che arrivino in tribunale tutta una serie di controversie, fra cui quella appunto fra coniugi. Oggi ci focalizziamo sulla cosiddetta negoziazione assistita, grazie alla quale coppie con determinate caratteristiche potranno divorziare più velocemente. Quali sono queste caratteristiche? Stamattina ce le spiega l'avvocato Carmelo Padalino, al quale potete rivolgere anche le vostre domande all'800 24 00 24. Avvocato, peraltro, con questa riforma ho letto in questi giorni sui giornali che l'Italia diventa di colpo uno dei paesi dove lo scioglimento del matrimonio sarà più rapido, no? Cioè, da uno degli ultimi posti della classifica facciamo un balzo così rilevante? Ma in realtà no. Io nella relazione che è stata presentata dal governo al Senato, il disegno di legge che dovrebbe confermare il decreto legge, ho notato che noi siamo passati dal 140esimo al 103esimo posto come efficienza della giustizia. Però rimane il problema che poi ha dato vita a questo decreto, cioè i tempi della giustizia civile sono lentissimi, l'Italia è soggetta sempre a condanne, a pagare indennizi, ed ecco che questo voler portare fuori dai tribunali una serie di cause ha come finalità, tra cui anche quelle di separazione e divorzio, ha come finalità quella di ridurre proprio il numero di cause pendenti davanti al tribunale. Un po' di snellire. Esatto, insomma. Si riuscirà a raggiungere questo obiettivo, secondo lei, per esempio, nelle cause di divorzio? Quante cause in meno finiranno in tribunale? Ma guardi, sempre questa relazione contiene dei numeri estremamente significativi, perché il governo ha valutato che solo nel 2012 ci sono state 80.000 cause di separazione consensuale o divorzio congiunto, cioè dove c'era l'accordo tra i coniugi. Quindi metà di queste prevedevano figli, quindi non rientrano nel decreto legge. Mm-hmm. Quindi si stima che su 40.000 cause che potrebbero non essere proposte, il governo ha stimato all'incirca un 25%, quindi 10.000 cause che potrebbero non finire davanti ai giudici. Vabbè, insomma, non è poco, avvocato. Vediamo allora che cosa può succedere, che cosa possono fare i coniugi che sono nelle condizioni di poter accedere a questo divorzio breve, qual è la prassi, qual è la pratica che deve essere seguita. Allora, ha indicato, lei prima ha detto una cosa, prima spiegandoci quelle cifre, non ci sono figli, no? E questa è una condizione fondamentale per poter ottenere il cosiddetto divorzio breve. Esatto, perché il governo ha ragionato in questi termini. Quali sono quelle cause in materia di famiglia che possono essere gestite senza un giudice, quindi senza il controllo, no? La funzione anche importante che è il giudice. Sono quelle dove sostanzialmente c'è l'accordo, ecco le separazioni consensuali, i divorzi congiunti, ma anche le modifiche congiunte di sentenze di separazione e divorzio già emesse, e soprattutto dove non ci sono né figli minori, né figli maggiorenni, non indipendenti economicamente, ad esempio gli studenti universitari, oppure figli affetti da handicap o incapaci, perché in questi casi rimane il controllo del giudice, che potrebbe dire che l'accordo dei coniugi non è tutelante rispetto ai figli. Ai figli minori, certo. Esatto. Anzi, ho detto minori, ma potrebbero essere anche maggiorenni, ma non ancora autonomi dal punto di vista economico, giusto? Esatto. Quindi in questo caso, anziché presentare un ricorso dinanzi al tribunale, aspettare l'udienza che nella migliore delle ipotesi viene fissata a 5 mesi, a 6 mesi, e poi attendere anche il provvedimento, quindi per un totale di circa un anno, 9 mesi, si è ritenuto opportuno far transitare tutto fuori dal tribunale presso gli studi degli avvocati. E mi fa piacere rilevare che secondo la relazione appunto del governo, si è puntato molto, questa è stata una scelta politica, quella di valorizzare la professionalità e la competenza del mondo dell'avvocatura. Ecco, ma di che tipo di incarico, di che tipo di lavoro si incaricano gli avvocati in questa procedura, appunto, di negoziazione assistita, avvocato Padalino? Andiamo subito al concreto per farlo capire ai nostri ascoltatori. Cosa succede davanti a voi? Ma guardi, davanti a noi la norma prevede che le parti, in questo caso i coniugi, devono cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in modo amichevole una controversia, in questo caso per trovare un accordo consensuale alla separazione dal divorzio. Ammettendo che venga trovato in tempi ragionevoli, in una settimana, in che punto si snellisce tutto il procedimento? Si snellisce che una volta che viene trovato l'accordo, viene certificato da parte nostra, viene consegnato all'ufficiale dello Stato civile e noi abbiamo 10 giorni entro i quali dobbiamo consegnare questo accordo, altrimenti siamo passibili di una sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 che verrebbe erogata dal comune. Ecco il ruolo, no, la responsabilità dell'avvocato, e in quel momento stesso o la separazione o il divorzio diventa efficace, effettiva. Beh, comunque uno snellimento dei tempi c'è, no? Perché lei prima parlava di quella famosa convocazione da parte del tribunale che non avviene prima di 5, 6, 7, 8, 10 mesi, quindi già questo è un tempo risparmiato, mi pare. Certo, certo, si azzerano i tempi per ottenere il divorzio da parte di chi già ha i presupposti per ottenerlo. Certo, allora perché lei prima diceva non cambia nulla, per ottenere il divorzio ci vuole lo stesso tempo? Perché se io ho presentato un ricorso per separazione consensuale a febbraio 2014 e ho ottenuto l'udienza a marzo e poi me l'hanno omologata ad aprile, io anche con questa normativa devo aspettare i 3 anni dalla data dell'udienza, quindi da marzo 2014 a marzo 2017 per poter fare il divorzio. Non posso chiederlo all'avvocato e ottenerlo immediatamente. Diciamo che quello che si snellisce è un po' l'istruttoria iniziale, non l'ottenimento del divorzio stesso. Esatto, i tempi per poter, come dire, ratificare quello che è l'accordo dei coniugi, perché alla fine i procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto prevedevano un giudice con un ruolo freddo, cioè si limitava a prendere atto, ma siccome si tratta di diritti disponibili, se un coniuge decideva, pur avendone diritto, di rinunciare all'assegno, il giudice non contestava questo tipo, no, di accordo. Quindi si è ritenuto opportuno evitare ai giudici questo tipo di cause dove in realtà avevano un ruolo molto marginale. È chiaro, ma devo dire relativamente. Comunque 800 24 00 24, numero verde per raggiungerci, dei nostri ascoltatori. Da chi iniziamo? Io andrei da Walter, che ci chiama dal Milano. Buongiorno Walter, benvenuto. Buongiorno a voi e grazie per avermi richiamato. Ci dica Walter, cosa è successo? Niente, come gran parte delle persone, specialmente qua nelle grandi città, si ritrova a dover tirar fuori molti soldi per fare questo atto di separazione. Come molti altri miei amici e conoscenti, anche se siamo separati non legalmente, sono 4 anni, anche 5 anni, che abbiamo concordato con l'altra parte, in questo caso con mia moglie, ex moglie, un accordo finanziario dove quello che io potevo dare, dove quello che lei rinunciava, purtroppo non riusciamo a fare l'atto, proprio perché ci chiedono almeno molti soldi. Sì, per noi. No, certo. La crisi, vedi, esatto, che cambia anche. Ha fatto bene, tra l'altro Walter ci sta parlando di una causa di separazione che è ancora in corso, perché mi dà un assist ottimale, direi, il nostro ascoltatore, avvocato Padalino, per chiederle, poi se vuole commentare anche il caso di Walter, prendiamo la sua considerazione molto volentieri, ma il tema è chi è che ha già attivato una causa di separazione che mira naturalmente poi nel tempo a raggiungere il divorzio. Può approfittare di questa opportunità che nel nostro ordinamento è stata introdotta proprio in queste ultime settimane? Per snellire i tempi? Può approfittarne nel momento in cui si definisce il giudizio di separazione, cioè la legge vale per il futuro, quindi chi oggi può iniziare una separazione consensuale può avvalersi di questo procedimento. Se è già pendente potrebbe rinunciare, no, e iniziare una nuova. Dell'aspetto economico, la legge prevede anche la possibilità per i coniugi, senza l'assistenza del difensore, di recarsi presso l'ufficiale dello Stato civile. Rendono una dichiarazione in cui mettono a conoscenza l'ufficiale che vogliono separarsi o divorziarsi, l'ufficiale ne prende atto e fa un accordo che contiene la separazione e il divorzio. Ma il problema dov'è? Le clausole, cioè se un coniuge magari per separarsi decide di accettare delle clausole capestro senza essere consigliato da un avvocato, quelle clausole resteranno in vigore tanto tempo. Ma chi le mette queste clausole capestro, avvocato, mi scusi? Ma sa, nella negoziazione tra coniugi possono anche non valutarsi determinate condizioni, non valutarsi il costo effettivo, no, del mantenimento dei figli, prevedersi un assegno che non comprende determinate spese che vengono messe in aggiunta. Tutti aspetti che magari vengono fuori quando naturalmente la vita da separati poi si attiva nella concretezza e magari ecco spese che non si erano messe in conto in precedenza. Quando volevamo divorziare velocemente non pensavamo a quello che sarebbe successo, poi emergono. Ma quindi lei, secondo lei Walter, che cosa deve fare? Ma se questa è una separazione consensuale, una procedura così lunga, stranamente lunga, dovrebbe a questo punto attendere l'omologazione, oppure potrebbe rinunciare al giudizio e avviare questa procedura di negoziazione. Ma però un costo deve sostenerlo, perché lui dice proprio come la mette, deve sostenere dei costi legali. Certo. Qual è la via più sicura e meno costosa? Mi faccia un po' capire. Ma guardi, questa della negoziazione assistita da un avvocato, che potrebbe essere anche un solo avvocato che assiste entrambi i coniugi, è la via più veloce, perché l'avvocato ovviamente che deve avere un ruolo responsabile, quindi mettere a conoscenza i coniugi tutti gli aspetti, no, da regolamentare, prevede questo accordo. Ovviamente le tariffe ancora non è stato previsto esattamente, no, quali si debbano applicare, ma è chiaro che non si può prevedere la tariffa per il giudizio di separazione per intero, perché non c'è qua una fase davanti al giudice. Quindi sicuramente anche i costi sarebbero notevolmente ridotti, non si pagano le spese di giustizia, che tra l'altro sono state considerate dal governo, che perderà circa 400.000 euro solamente il prossimo anno, no? Se si faranno questi 10.000 casi di negoziazione assistita. E quindi in questo caso io ritengo che con tempi brevi e poca spesa, sostanzialmente sono l'orario dell'avvocato, si riuscirebbe ad avere a un accordo valido, una separazione, come dire, che può durare nel tempo. Comunque insomma non è che sia proprio così immediato capire chi può utilizzare questo nuovo strumento, avvocato. Converrebbe andare più d'accordo, guarda. Vedi, alla fine che non ti venga in mente di divorziare da me, perché qua, a parte che noi andiamo da Padalino che ci aiuta naturalmente. Allora, e noi adesso però andiamo anche da Denis. Certo, Denis, che ci aspettava da un po'. Buongiorno. Buongiorno Denis, provincia buongiorno. Di Cilica. Allora, vi espongo il mio caso, sperando che sia così di utilizzo anche ad altri ascoltatori. Allora, io sto perseguendo una separazione giudiziaria da circa 2 anni e mezzo. Sì. Innanzitutto volevo sapere dal vostro esperto se in ogni momento può essere trasformata in una consensuale. Ha dei figli, volevo... Denis? No, non ho figli. E inoltre voglio sapere se nel mio caso, diciamo, può essere utile quella che è stata appunto la riforma o quelle che saranno le nuove norme, la negoziazione assistita. Grazie Denis, andiamo subito all'avvocato Padalino. Allora, avvocato, certamente da consensuale a giudiziale è molto facile che lo diventi, no? Ma può anche avvenire il procedimento contrario, che da un certo punto tutta questa guerra, no, si voglia interrompere e che con totale accordo i due coniugi che si sono dati battaglia decidano di separarsi consensualmente. Sì, avviene, ma avviene nell'ambito del processo. I coniugi si mettono d'accordo, sottopongono le condizioni comuni al giudice che fa una sentenza che tiene conto di queste condizioni. Il problema qui è che comunque il procedimento giudiziario non deve più esistere, cioè se io voglio fare la procedura di negoziazione assistita la faccio fuori dal tribunale, quindi quel procedimento deve necessariamente essere interrotto. Come si fa ad interromperlo? Abbandona, uno non si presenta più all'udienza. Denis deve fare praticamente. Tu mi vuoi far divorziare da qualcuno? Ti sto dando tutte le idee che sono possibili. Quindi, avvocato Padalino, Denis, per esempio, allora vuole trasformare la giudiziale in consensuale, basta non presentarsi più alle successive udienze che magari possono essere già fissate e andare da un avvocato e attivarsi con la procedura di negoziazione assistita? Sì, diciamo che nel caso di Denis io l'accordo lo farei davanti al giudice, perché già c'è l'avvocato, probabilmente lo avrà pagato. Quindi gli conviene portare avanti quello che ha già intrapreso. Esatto. Allora, abbiamo specificare i presupposti, diciamo, non erano chiari. In realtà se i coniugi sono in conflitto la procedura non si può applicare, devono essere i coniugi d'accordo sulle condizioni, senza figli. Questi sono i presupposti, diciamo, fondamentali. Esattamente. Ribadiamoli più spesso, perché almeno, insomma, chi magari sta così accarezzando l'idea di fare il cosiddetto divorzio veloce, ma dei bambini in casa, sappiate che questa è una condizione che esclude totalmente questa possibilità. Noi abbiamo due ascoltatori che sono in attesa, Nicola dalla provincia di Monza e Michele dalla provincia di Como. Senti, prima però magari vuoi ricordare intanto di questa iniziativa? Certo, che dici, oggi un'iniziativa a proposito di bambini, ecco, prima di chiudere e di dare la parola ai nostri ascoltatori, vogliamo segnalarvi che oggi sarà celebrato in tutta Italia il Dental Baby Day, che è la giornata nazionale di prevenzione odontoiatrica dei bambini, che ha tra l'altro il patrocinio del Ministero della Salute. Quindi se avete dei bambini non perdetevi questa occasione, potete sapere di più sulla prevenzione odontoiatrica in età pediatrica, che è molto importante. E per tutte le informazioni sulle iniziative che si svolgono un po' lungo tutto lo stivale, potete andare sul sito della SIOI, che è Società Italiana di Odontoiatria Infantile, ma se avete dei dubbi, Cuore Denari è sempre a vostra disposizione. Ottimo, abbiamo messo anche probabilmente questa iniziativa, qualche notizia sul nostro profilo Facebook. A proposito, andate a mettere like su Facebook, che dobbiamo ancora crescere come comunità nel nostro, nostro account. Allora, Michele dalla provincia di Como si era messo, si era prenotato prima di Nicola. Michele, buongiorno. Sì, buongiorno. Michele, niente, perché ha anche il nome del nipote di Deborah, e ha fatto è questa. Il mio preferito. Ecco, io non so se Michele sia, veniva prima di Nicola, Michele ci dica. Niente, volevo sottolineare quello che diceva Deborah, che in sostanza praticamente è un altro decreto legge abbastanza riformicchia, perché avevo tantissime aspettative in questo decreto, visto che. Mi sono separato ormai 3 anni fa e lavorando in Svizzera, la Svizzera non prevede la separazione ma soltanto il divorzio, loro ci mettono 2 mesi a divorziare e sono costretto per altri 3 anni a dividere il mio TF, quello che è il TFR, che si chiama secondo pilastro svizzera, per altri 3 anni dovrò dividerlo con la mia ex coniuge. Premessa, non ho voluto io questa separazione, non ho voluto io il divorzio, adesso che le condizioni psicofisiche sono ottimali ho accettato la cosa. Mi viene chiesto di aspettare altri 3 anni dividendo il TFR ancora con la gestione. Michele, ha tutto. Un'altra riformicchia come quella del Senato, come quella della riformicchia l'ha chiamata Michele. Allora, magari su tanti altri aspetti, per la verità, forse qualche velocizzazione della giustizia ci sarà. Michele, grazie. Nicola ci scriva, cuoredenari@radio24.it. Gireremo le sue osservazioni all'avvocato Padalino, che ci aiuterà senz'altro. Avvocato, c'erano sicuramente altre cose da dire, ma ci torneremo, d'accordo? Sì, volevo solo dire che in Svizzera non solo hanno la separazione, ma anche un altro procedimento che si chiama tutela della vita domestica. Ecco. Dobbiamo riflettere quando critichiamo. È vero, avvocato, e segnalo anche l'SMS che ci è arrivato questa mattina di un mediatore familiare che invece la vede in maniera totalmente contrapposta, contrario probabilmente a questi divorzi veloci, e invita un po' di più al dialogo e appunto alla mediazione. Quindi ci sono visioni totalmente contrapposte. Grazie Nicoletta, ci sentiamo domani? Sicuramente, qui vi aspettiamo. E denari.